esatta. Cucciuccio. Eh beh, Antonè. Beh, Carluccio, come va? Tutto a posto? Oh, io mi ho finito di mangiare adesso perché mi sono svegliato quasi alle 3, avevo fatto la notte, quindi sono rientrato a casa alle 8:30. Figurati. Sei a posto già, comunque siamo da ristrare. E rientrando sono passato vicino a casa tua, perché lì di fronte dove c'è acqua e sapone, visto in quel palazzo, ci abita un mio collega e a volte viaggiamo insieme, quindi avevo lasciato la macchina da lui in quel parcheggio lì davanti a acqua e sapone, e quindi ho visto la tua antenna con tutti i radiali, tutta lucida. Hai visto, ho fatto un bel lavoro, hai visto? Adesso è perfetta. Adesso mi manca solamente una cosa. Da voi non mi manca. Mi manca altro. Una volta che c'ho quella, sono a posto. Hai fatto un bel lavoro, dai, almeno te l'hai rimessa a posto, ordinata, pulita, insomma, un bel restauro, dai, è venuto fuori. Sì, quello sì, piano piano ho fatto, non è che mi si è messo la fetta, addirittura, no, su, quindi, a un certo punto, piano piano si fa tutto. E io lo stesso, comunque un'altra antenna la tengo, io ho quella SD, quella della Sirio conservata, l'avevo pulita, quando l'ho tolta avevo messo la J-Ball e ce l'ho in garage conservata, perché non si sa mai, dai, può sempre servire un'antenna di ricambio anziché stare a chiedere a uno all'altro, eccetera. La tengo lì in caso di emergenza, capito, ce l'ho un'altra antenna. Hai fatto bene, guarda, io, vabbè, mi sono sempre quella lì, dopodiché l'altra ho lasciato da parte, in pratica, in riserva, non sai che magari, cosa ne so, arriva qualche passata di vento, un ciclone, quello che, me la butto giù, e cosa installo a un certo punto? Non installo niente. Comunque sia, va bene e siamo a posto, spero, la verità, spero. Già va bene, speriamo che, come l'hai rimessa a posto, che ti duri il più possibile lì. Ma il radiale che mancava o quelli che mancavano ce li avevi, non si erano rotti, li avevi custoditi tu e quindi li hai rimessi adesso. Uno me ne mancava, la verità. E uno l'ho modificato, infatti uno è più lungo, se guardi bene, nella parte del confine è molto più lungo, 2,70 m, una cosa del genere. E quello non ci ho barato, visto che insomma prima mancava qualche radiale, adesso c'era il girasole, dai, ho dato un'occhiata un po', non ero proprio sotto casa tua, ma ero lì vicino alla rotatoria, e quindi ho buttato l'occhio da lontano, capito? Capito. Ehi, vabbè, è ottimo. Si fanno le cose, come si dice. Poi adesso mi sono preso un caffè, ho fatto un caffè e quindi sono in cucina e niente, avevo acceso la radio, quindi ho sentito adesso il beep, ho detto sembrava l'ora esatta, capito, quel segnale che davano in passato prima dell'ora. Ah, va bene, però non c'è problema. E ogni tanto attacco quello della macchina, tanto è piccolino, ce l'ho nel cassettino e quando ho tempo e voglia attacco, capito? Anche se con le norme nuove del codice della strada è un casino, cioè se ti fermi e parli alla radio nessuno ti dice niente, però se stai camminando è come usare il cellulare, capito? E quindi sei punibile, ti levano i punti della patente, ti mettono la multa, sospensione della patente, insomma un casino, quindi capito, però basta usare un po' di prudenza e già non ti dovrebbero rompere le scatole. Il problema è che quando ti vedono che ne so, chi controllano vede un'antenna e tira un po' nell'occhio, quindi fermano la macchina e magari danno un'occhiata se stavi parlando e ti cazziano. E già vedo che parli da solo, e tu cosa dici? Oh, è il cellulare. E già c'ho anche il viva voce in macchina del telefono, perché la mia radio è Bluetooth e quindi si collega col cellulare, quindi posso dire anche no, ero al telefono, guardi, e quindi ed ero col Bluetooth, le mani sul volante, perché se metti il microfono sulle gambe parli lo stesso e non ti vedono comunque. Sembra così, ma già ti vedono, non ti preoccupare, perché parli da solo. Guarda che lui c'ha il laser lì, quindi a un certo punto ti controllano a distanza di 200 metri, quindi anzi anche di più, di chilometri, quindi parli da solo, dici, con chi stavo parlando lì? Fino a poco fa, e tu cosa dici? No, io stavo parlando da solo, mi dicevi. Oh, gli dice che stavi cantando, capito, che da poco c'è stato Sanremo, quindi stavi cantando le canzoni di Sanremo. Sì, dimenticato di Sanremo e ti mette a cantare, il discorso è diverso, ma già lo sai, anche tu. Oh, yeah. Comunque dai, e tu di bello cosa stai facendo? Niente, la verità adesso, per il momento niente, la verità, quindi dopo devo uscire e sistemare un pochino le cose, le piante e basta. Ho capito, io già c'ho l'elenco di quando c'è il coso, il telelaser. Ho capito. No, io devo solo te in pratica agganciare, fare la modifica al coso, ma faccio io. Quelle lampade, visto le lampade vecchie, vecchio in pratica al mese. No. La modifica, il numero che funziona con la borsa e sono a posto. Questo è sono tranquillo, c'è che altro. E non me la prendo. È meglio così, io lo stesso. Io l'altra volta pensavo di avere Ross alto, che c'era qualche problema, ti ricordi? Tu mi avevi detto controlla e c'era il coso smontato, perché stavo per scollegare tutto, capito? Perché c'erano i muratori, invece poi lì non ci sono passati e quindi l'avevo avvitato senza stringerlo. Però loro hanno spostato, toccato il cavo per spostare del materiale che c'era, quindi si era allentato quello, capito, e non faceva bene contatto, quindi l'ho riavvitato, l'ho isolato di nuovo e adesso è tutto a posto, rosso eccetera, centrobanda a zero praticamente. Hai fatto bene, visto, hai è una cosa di lusso, la verità. Quando funziona bene tutto è meglio così. Poi i watt che ho qua già sono sufficienti, se ne volessi di più ce l'ho pure, ma con questa radio praticamente regolabile e anche in SSB già spara un pochettino, capito? Quindi che collegamenti già ne faccio e così uso solo i watt della radio. E fai bene. Io non so di che cosa, la verità, Ma ogni tanto mi viene il coso di collegarlo, capito? E quando c'è propagazione magari spari più lontano, eccetera. E lo tengo uno, ma ho questa radio, poi c'ho lo strumentino che mi controlla tutto, che è un SX100 della Diamond, capito, Rosmetro eccetera, e niente, poi c'ho un'antenna di riserva, la radio piccola della macchina e l'aiutino che ti dicevo per qua, capito, basta, poi tutto il resto pian piano lo farò fuori, perché se no troppe cose, radio portale, volatili queste, tanto poi le tieni, non le usi perché non funzionano bene, alla fine quella, diciamo, usi la radio che usi nella stazione fissa di casa e basta, capite? Quella della macchina ogni tanto. Lo so. So cosa vuol dire. E nulla, quando avrò un po' di tempo così da dedicare, se voglio proprio fare qualche spesuccia, ho sempre in mente di prendermi un ricevitore, però di quelli buoni, di quelli che prendono un po' tutto, anche se costano una bella cifra, però prima o poi lo prenderò, capito? Quindi all'antenna che ho a fianco una per la ricezione, male che vada, se faccio farò quello, però non mi imbarco in altre radio, in altre antenne, in altre cose, capito? Lei c'ha ragione, meglio un ricevitore che un... Non lo conto, prendi un RDS, hai capito? Un ricettore che va da zero a un sacco di frequenza, di cosa è quello. Un cinese lì, sto parlando io. Quindi a un certo punto, quindi porta una cazzata e ti diverti più che altro. Ne ho visto uno bello a Orbi V1, ma costa più di 1.000 euro e praticamente prende tutto, prende anche digitale, capito? È sia analogico che digitale, quindi prende tutti i segnali DMR, capito? Decodifica in automatico e fa un sacco di cose, solo che costa un sacco di soldi. L'ultima versione che è stata aggiornata, c'è il software aggiornato, lo puoi collegare al computer, ma non starò lì a collegarlo al computer praticamente, però prima voglio far pure un sacco di roba che ho, capito? Come antenne per macchina ne ho almeno una decina, capito? E niente, quindi te ne lasci due, tre massimo, tutto il resto adesso lo voglio fare fuori, un po' su eBay ne sto mettendo dove capita, qualcosina l'ho fatta fuori e adesso piano piano niente, così quello che ne ricavo, magari se riesco mi prendo un bel ricevitore, capito? Ah vabbè, meglio niente, cioè, quello sì. Questo che ti sto dicendo costa adesso 1.237 su eBay, costa un bel di soldi, capito? Non è un portatile però, ed è un'ottima radio, capito? Praticamente va da 0 a 1.300, il modo analogico, DMR, DSTAR, insomma c'è un sacco di cose, quindi puoi ascoltare un sacco di roba, perché non è che sia rimasto molto da ascoltare, invece in quei modi lì, in DMR eccetera, digitale si becca qualcosa, capito? Giusto per ascoltare quando non c'è nessuno in frequenza, magari ti tieni anche quello acceso e magari ti senti qualcosa. Ah, quello sì, quello c'è, andate in volontà. E poi praticamente non è neanche ingombrante, quindi riesco, ho visto le misure e ci sta affiancato alla radio che ho, capito? Quindi faccio un'altra discesa, capito, di filo, e quindi riesco a avere tutto a portata di mano. Meglio così, e allora, sei tranquillo. Poi una volta che ti levi questo sfizio, insomma, diciamo che già va bene così, non ho voglia di imbarcarmi con altro, anche perché per la 27 va bene questo. Poi se vuoi andare sempre in queste frequenze, nelle bande laterali, ce li ho, e watt ne posso aggiungere, ma bastano quelli della radio per adesso, per cui, capito? Anche perché io ancora sto lavorando, tra lavoro, impegni di famiglia, non è che ne ho tantissimo di tempo. Poi magari ancora 6-7 anni li dovrò fare, capito, lavorando, per cui magari quando alla fine finisco avrò più tempo, quindi ci posso dedicare qualche oretta in più alle radio, però per adesso già va bene, Antone. Bene, a voi, ci mancherebbe. Ma vino ne bevi tu? Vino buono? Sì, ce l'ho qua voglia. Lei lo ricordi già. Qui da questo punto. Non lo di tutto io. Ce l'ho piano ma ce lo bevo. Non è che sono quelli. Prende. No, assolutamente. Hai visto? Non potrebbe anche toccare quel coso. È troppo tolgo quella cosa lì. Di Zeppi da Seguata. Abbiamo bevuto in quattro. Io, Giovanna, il figlio. Mio fratello, figurati tu. Non ho mai assaggiato, dicevo, una cosa del genere da mangiare. Ti giuro. No, perché, sai perché, Antone, perché io ne procuro tanto col lavoro che faccio, anziché buttarlo, capito, lo teniamo noi, quindi giù il mobile che sta pieno, capito, e ogni tanto aggiungo bottiglie e non ci sa più niente, e appena, non lo so se ci sei tipo domani, già ti mando un messaggio, ti chiamo al telefono, ti metto da parte un po' di roba così te la passo, capito? D'accordo, non c'è quel problema. E ci mancherebbe, già lo sai. Non lo bevo solo io, già lo sai, anche tu, quindi a questo punto. Quella che è piaciuto anche a Giovanna, a me, addirittura, mia sorella, che già lo sai che tu. E a volte non è che non bevo di quello che lì, però. Tu dice, ho mai assaggiato, dice, un mito, dice così, in vita mia, mi ha detto. E tu questo ho detto, mi ha dato, ho detto, la verità, fare persone, no, basta. Io qualcosa già la bevo, ma qualche bicchiere di birra lo bevo, anche il vino, però tutta quella roba lì io poi non la consumo, capito? E non mi ci sta più niente, quindi a volte ne regalo, c'è un amico mio, certe volte viene, l'altra volta è entrato in garage, e tutte queste bottiglie di vino, eccetera. Ho detto, prendi tutto quello che vuoi, se ne ha preso roba di 10-12 bottiglie, capito? Perché non lo consumo, ci sono vini di tutti i tipi, ma ovviamente Vinisella e Mosca, che ne so, Contini, di queste cantine qua della Sardegna, e già lo sai che i turisti si portano di tutto nel bagaglio a mano, certe cose non passano, e quindi quando va bene, capito? Vabbè, ma non è che penso, mica te sono di cioè, va bene, quando fai un caldo a cena, va bene, quel tipo di vino, la verità è, la metti da parte, a un certo punto, vuoi fare la cena, dici, guarda, io ho quel tipo di vino, ti va bene, se mi riconosci, e basta. La cena con quel tipo di vino, il discorso è quello, hai capito? Ho capito. E niente, tu casalingo oggi, non sei uscito? Sono uscito stamattina, la verità. E quindi sono andato, i piedi per matto a un certo punto. Comunque, mi ha detto invece che sono sano, di robusta costituzione. Cioè, immaginati dove sono andato. Oh, io sono un po' stanco perché ho lavorato stanotte, praticamente dal giorno 15, diciamo ho fatto da mezzanotte alle 8, sia ieri notte che stanotte, quindi ho fatto due notti consecutive perché non siamo tantissimi e abbiamo un sacco di persone in malattia, capito? E quindi mi è toccato fare la notte di una collega che doveva fare il turno notturno, è mancata e quindi in emergenza mi hanno chiesto: la puoi fare tu, dai, che tanto poi c'hai il giorno di riposo, rientri di sera. Ho detto che sia l'ultima volta, perché due notti tutte insieme così ti crepano, capito? Sono turni un po' duri, non dico, il lavoro non è pesante, non è neanche impegnativo, il problema è che entrare a mezzanotte, quindi ti tocca aspettare alle 11:15 io esco, a mezzanotte meno un quarto sono mezz'ora al lavoro, capito? Non è quello. Il problema è che arrivi a mezzanotte che c'è già sonno, perché ti viene il sonno naturale, fisiologico a quell'ora, invece tu stai iniziando il turno di lavoro, mi capisci? Quindi la devi stare là prendendo caffè per tenerti sveglio, e poi non puoi dormire, poi devi fare la chiusura, e poi devi fare prova allarmi, e poi devi, insomma, alle 4 c'è l'apertura, poi c'è il collega che va in giro, eccetera, e quindi sei con la radio, con quello, dove sei arrivato, tutto regolare, appunto abbiamo il registro dove segnare i giri che facciamo di controllo, insomma, e quindi non è che poi devi stare sempre sveglio, capito? E le 8 la mattina non arrivano mai, quindi rientri a casa che sei crepato, ti butti, fai, che ne so, colazione, ti butti a letto. Infatti oggi mi sono alzato quasi alle 3. Sì, già me lo immagino, appunto per quello. E io, avevo un lavoro strano, quello che stai facendo tu, di teatro, capito? Di giornata sì, ma 12, 14, 8, 20 ore, no? Non va bene, capito? Il discorso è quello. E noi facciamo turni regolari di 8 ore, però le notti sono pesanti, capito? Magari da ragazzo prima le facevo più tranquillamente, adesso iniziano un pochettino a pesarmi, soprattutto quando sono due. E per fortuna dovrei fare qualche notte sino a maggio, poi da maggio in poi non dovrei fare più turni di notte, meno male, perché capito, ci sono i colleghi che adesso entrano, i colleghi a tempo, no? Li chiamano d'estate per la stagione, e quindi ci mettiamo allora a fare quei turni lì. Sono tutti ragazzi più giovani, per cui se li sbolognano loro, anche perché sono stagionali, li chiamano praticamente da giugno sino al 30 di ottobre, e quindi ci mettiamo allora a fare quei turni là, e quindi io farò solo tutta l'estate, farò mattina e pomeriggio, meglio, poi ci avrò i liberi e i riposi, quindi dovrebbe andare meglio almeno per l'estate. Lo spero, la verità, tanto lo spero, però sei tranquillo, non c'è nessun problema. Poi adesso mi sa che mi do una sciacquatina e mi vesto, perché sono ancora in pigiama, Antone, e non lo so, poi se ci sei ancora, dai, già lascio acceso, quindi faccio un attimo di bianco, un 10 minuti, 15 minuti che mi levo di dosso il pigiama, mi do una lavatina, così mi preparo, che stasera me ne esco un po' a farmi un giro, se no sempre casa e lavoro non va bene. Domani sono di riposo, e nel caso ti chiamo, ti metto da parte quella roba che ti dicevo, capito, Antone? Ci sentiamo più tardi al limite, dai, grazie delle 4 chiacchiere, brava, alle prossimine, dai, o a più tardi. Vabbè, un certo dopo, noi ci mancherebbe, già sono a casa, non preoccupare. Ehi, Antone, a più tardi, ciao. Anche a te, non c'è problema. Thank you. E beh, Brigido. Oi, Bionda. E allora, come va? Ehi, come va? Con i piedi è sempre andando. Anda bene, Mela. Come va? Come devi andare? Chi sei la ministra? Chi sei di lì qua? Ah, quello è poco ma sicuro. Cazzo, che gradi dei freddi? 22 gradi ci sono in casa. Arrabbaccio. Carlo, stamattina sono uscito in moto, si cavava in moto, ma ho fatto un giro a Sassari. Prego, prego, prego, gira lei, non... Quindi devi entrare stanotte. Dai, cazzo stanotte, domani mattina alle 5 e mezza. Almeno dormi nel tuo letto, qualche ora. Cazzo, domani mattina, sai, domani sarà una settimana da paura, non ti dico come, ma è una settimana da paura, veramente. Domani dice che dovrebbe raffreddare invece, dice che abbassa la temperatura domani. Ma di mattina? E allora? Torniamo al freddo, caro lì. Ma sinceramente a me non me ne può fottere nulla, io preferisco il freddo, a chi mi cambio barzegliaio o barzegliaio. Quello è poco ma sicuro. Ma che da prego, prego, prego, attento, attento, attento, attento, di Sassari. C'è qualcuno sotto, Manuè. Un attimo che devo telefonare alla dottoressa io. Ci sentiamo più tardi al limite, se riesco a parlare con questa qui, a vedere se mi può visitare, chi so guapiti. Vabbè, vai, mi assento anche io, dai, ci sentiamo più tardi in caso se rientri. E ok, già chiamo dopo. Brigido, l'ho preso l'appuntamento per domani mattina. Ma come? E dov'è? No, dalla dottoressa mia, per visitarmi, sono da Pasquetta così io mi addolori, cazzo, c'ho un dolore dove mi hanno operato all'ernia. E più mal di pancia pure, figurati. Vai tu, oh vabbè, io sono con Maria, due orecchine, lascia perdere, non è questione di irne. Sì, già lo so, ma a me mi hanno operato lì all'ernia inguinale, capito? E c'ho un dolore lì, anche quando vado in bagno a fare acqua mi fa male, cazzo, non c'è nulla a fare, e anche mal di pancia c'ho. Sono da Pasquetta così. Chi se l'accusa che giù mangiato un bocchito, siccome non ho la colicisti più perché me l'hanno tolta, penso che non ne posso più mangiare porcetto. Boh. E ne ho mangiato poco, mi. Un pochettino a Pasqua e un po' a Pasquetta, ma guarda, meglio la morte, sono da così da Pasquetta io, chissà cosa va laggiù. Boh. Sì, adesso ti farò fare, sto la visita del sangue e tutto qua. Ma allora vi diremo e mi visiteggi a chissà domani. E se devi fare visita del sangue vai su in via Lomberto, non andare a Tirozzi. No, vado in via Pasubio, vado, che così non pago, mi ha detto Tore. Tore va sempre lì, ha detto. Non paghi, io non ho pagato il marco in via Lomberto. E io ero a Tirozzi, l'ultima che ho fatto 38 euro, ma lo sicuro, ma non passare in piazza di Macchi. Ma va che quelli sono macellari, sono capiscono la parte per cazzo di... Io vado sempre in via Lomberto, ho portato l'esercizio l'impegnativa con l'esenzione 02, non ho pagato nulla io. Io che ho la C03, che non devo pagare un cazzo da nessuna base, 38 euro ho dovuto pagare. E allora non devi pagare, se no avrei chiamato i carabinieri io, non devi pagare. A tutti i pezzi di bagaglio ratti d'osso, infatti non vanno più. Oltre che mi hanno immacciullato i brazzi, mi hanno impigliato lo sangue da rimane a chi non riusciva a ciapparmi la vena, mi hanno immacciullato i brazzi, eppure 38 euro mi hanno impigliato. Insomma, ma la massa di lato, insomma, no. Io non ci sono mai andato all'Ateroce a fare visite del sangue, mai. E voi state iniziando sempre i denti, chissà dottoressa che mi era prima, cazzo la prima mi racciappava la vena, la prima! La vacca tu, ogni tanto giambani, dottori o dottoressa, e ti macciullano le braccia. Anche non si vanno a cacciare le mille vecchie dottoresse, ma fa fare la cavia, fa il paraculacro, ma no. E sopra i bracci miei, la mano me ne ha pigliato lo sangue, a chi dal braccio non per ridiscendo. Mi pare che eravamo l'ultimo. Vai giù. Ma macciulla tutti e due i brazzi e dalla mano me l'ha preso. Cazzo, sto qui se non pari vero. Io, in che condizione siamo messi noi? Uscire a queste cose mi era successa i ripidari che andava già un infarto, che è giunto chi ci ha pigliato nel sangue, a chi ognati mi pigliava nel sangue, ogni giorno. Cazzo! Mamma ci ha dato tutti i bracci e non mi ha pigliato di sangue, è giunta una vicina da niente. Cazzo, Angela si chiama questa ragazza. Alla prima mi l'ha ciappato, come si spiega, vuol dire che non pigliava un vicchio, ed era anziano puro. Ma non avevo questa gente qua, quando non capo che non sanno fare un cazzo, neanche prendevo il sangue. Anche se si l'avevo mandato fuori era di coglione, sai niente. Anche se vedo che a due mi aveva fatto male, l'avevo cazzo già massacrato di corpo, l'avevo massacrato. Così quando sono andato all'ospedale, che mi avevano fatto il tampone, mi stavano facendo il tampone, mi state facendo male. C'era uno che aveva avuto 45 anni e le altre due ragazze avevano avuto 20 anni, bocca in pari. Questo cazzo di gioco di sé non pare vero. 38 euro. La volta che mi avevano fatto pagare 15 euro avevo pagato, dava 38. Le matessi esamini, a chi so fare la visita diabetologica che gli posso. Ma non ci vado più lì, no, balle sono. E anche al caffè, adesso per fare il modello di sé. Cazzo, prima non si pagava nulla, avanti fatene pagare 7 euro. Sei stato fortunato, a chi dici che si paga 15 va? Allora sì che ti faccio casino, perché secondo dove vai, a me mi hanno detto che queste cose qua non si pagano, mi hanno detto, assolutamente. Uno cazzo, secondo me la cosa deve fare, eh? Se non la cosa deve fare. Si ammazza, cosa vuoi che ti dica? Ci sono pure zenni, gatta, che ci sono puttendo al punto di non potersi più curare. Cazzo, va giù un brufolo io vicino all'occhio, no? A ottobre devo andare a fare la visita. Ma dimmi tu, quando butti anni fa mi lo benissimo in ambulatoriamente. No, prima la visita da dare un dermatologo, cazzo. Ma andiamo a fanculo. Ma non è che qualche pollo, no? Vicino all'occhio mi è uscito questo un brufolo, deve essere una bolla di grasso, deve essere che cazzo ne so. Beh, mi hanno mandato a fare la visita da dermatologo. Cazzo, ma dimmi tu. A ottobre me la fanno. Quando gioco molto, mi. Ma non è niente quello, anche a me mi escono vicino a Lucchio, mio Natali. Palle di grasso, sono bianchi sono. Quelli mamma me ne escono da soli. Io ce l'ho un bel di tempo e l'oculista mi ha detto di farmelo togliere. Cosa vuoi ti dica? No, non se n'è andato, no? Deve essere qualche altra cosa, deve essere, cosa ne so. Adesso vediamo a ottobre se sono vivo o mi, perché bisogna vedere se sono vivo a ottobre. cazzo dice di andare a visitando dei mucchi. Questi sono ma questa gente qua fuori di te. E poi siamo nel mondo di merda, ma veramente, un mondo di merda. L'Italia sta diventando uno schifo, è diventata l'Italia. Chi la dà che cazzo? Non ho bisogno lunghi, devo fare una dacchi io, no? La neurisma che ho. E non ci sono posti. Si andi a pagamento questa, 300 euro una di chi si dà. Dimmi tu, va, se uno non ha, come ti devi fare? Dall'oculista sono dovuto andare a pagamento, perché se no lunghi non veniva nei rumattessi. Ma dimmi tu, boh, come si deve fare qua? Io non vivo una vera rivoluzione. Se invece di tagliare la sanità se ne viene tagliato le mani, gli salienti. Allora manco tutti i dinari se ne hanno curato e non ripudia nebuno in busciaccara. È diventato uno schifo. È diventato uno schifo in tutto, sia sanità, sia le strade, sia... È stato diventato molto inagio, sai. L'italiano in mezzo all'America. Che stavo dicendo, adesso fa un po'. Ci sono queste votazioni qua che forse ho sentito che entra Paropoli come sindaco. Ma avrei voluto che entrava lui al 100%, al 100% che quel pezzo di merda di campus, a quello lì qualche giorno lo sparano, qualche giorno. Ma cosa vuoi che ti dica? Si soppucenti a un punto, mi, che diventiamo come te l'America, che se ti vuoi curare devi avere l'assicurazione. Ma sai che quell'amico mio medico, quello che è psichiatra infantile, si è fatto l'assicurazione, a chi l'usa già che se non vai di naso è buttito. E pensando, uno se non va di là devi tremare, non c'è che tremare, devi morire. Se lo dicono loro, non c'hai soldi, no, non apri tutti, dice. E quando telefoneggia a Rugup non per mai Rugup. Cazzo, dimmi due, va. Mai, non c'è posto. Io devo fare degli esami, se non ne posso fare non ne faccio, se la bigliano in culo, cosa vuoi ti dica? E adesso cazzo, ho fatto la visita oculistica e dice che ho le cataratte e devo andare fra 6 mesi, mi ha detto, cioè a giugno, devo andare da questa dottoressa a pagamento, a vedere se mi mono in lista ma fammo operare. Boh, dimmi due, va, sì, boh. Mio cognato lo stesso, l'avevo fatta, dopo un anno l'hanno chiamata a fare questo cazzo di cataratta, per un occhio, Aveva venuto alla croce, lui chiamava da Murionacro alla croce. Ma cosa vuoi che ti dica, Manuè? Siamo in mano, boh, non lo so a chi. Ma è uno schifo veramente, più stiamo andando e più stiamo peggiorando. Infatti, io non lo so cosa va arriva a pigliarmi la menzione, se non mi cubrima, cazzo, con tutti i maranni che va giù. Ma che vuoi che ti dica, io sono pure rassegnato. Ma a 7:30 quando venne mia moglie, uscì in bagno e mi si gocca chi so a pezzi oggi. Sono a forza di bruffe in devicià, ma non avevo assai dolori. A chi lo è che mi basta di tutto, mi rugai ma è buono. La bui basta l'effetto e sono dolori. Sì, ma no, non va bene però a prendere sempre medicine, mio. Anche io guarda, medicina, non mi dire medicina, sono proprio legato per prendere medicina, perché non mi piace, anche se c'ho il dolore, non ne prendo, perché poi cazzo, ti passa da una macchina e ti ha legato da un'altra. Sì, io lo so, Manuele, ma quando vai lo dolore gli dà la canzona. Io uso il contrario a pigliare i medicini, però purtroppo è un macello, cosa vuoi ti dica. Adesso vediamo cosa mi dice la dottoressa domani. A chi si mi pratica che impegnativa e non ve lo cugato, mi manca bozzi. al telefono, vedrai. Ma se no in questura denunziai già tutti. Dice che non ci sono posti, no, io devo fare delle visite, se no crepo, gli dico. E loro ti dicono, mi faccio vedere l'impegnativa, ma come lì è proprio urgente da fare queste cure qua. Loro ti dicono quello. Ma è urgente, e loro però ti dicono che posti non ce n'è, che non ci sono date, e quindi cosa vai? Non ti curi, ma voi quando ti viene a che cosa, che sui tesci di biglie, cosa vuoi ti dica? Ma per carità, guarda, io sinceramente non lo schifo veramente, è uno schifo veramente in Italia, ma sono qua così, e sono i nodi. Pure incontinenti e così. Cazzo, la televisione, mi sto dicendo, tutti i rigurori, mi sto dicendo, hanno tagliato la sanità, non so quanti medici ci vogliono, allora vedi, non ci sono manco dottori, non ci sono. E ma che a pagarli questi civili, come il lavoro che sto facendo io, vedrai che anche il settore dove sono io, vedrai che chiudono i battenti, voglio vedere se aumentano dopo. E infatti è così. A presumere 20.000 medici mancano, ma io, come si fa? Una nazione come l'Italia, meglio che fanno schifo. È uno schifo, sì. Aspetta un attimo, mi sono chiamato. Sì. Cazzo, mi ha mandato un messaggio il mio collega, che stanotte c'è il mio collega a fare la notte. Ha detto che è già cagato a fare il servizio stanotte. Cazzo cagato, ma che cazzo di colleghi vai? Ma perché? È quello che gli ho detto io, cazzo non si, cazzo grande e grosso, cazzo un cazzo, ma cazzo, cazzo te me l'ombra tua, mi Natali. Io quando ho iniziato a lavorare nella vigilanza, che ero su a Milano, come primo servizio, quando mi avevano appena assunto, non per vantarmi, mi avevano messo in questa villa di un conte, questa è quelle ville, cazzo vecchie, cazzo di servizi dell'orrore, facciamo vedere una volta, con l'estate, tutto quanto, rumore a tutta andata, è vero, anche su cazzo di villa, ma c'avevo un terreno che ti perdevi, se dovevi girare con la macchina lì, pensa tu, cazzo si andava lì, cazzo grimbava le grimbaguri. Ioia. Si ne vede in esibizi ronfi, s'assucciane, in abbia un gioco. Cosa? Non deve avere lo valore a venella, Cazzo. E anche tu t'avevi detto, Gianna, ti rammenti che la viene cutta, la viene disarmato e la viene cutta un po' che i ladri. Io, per carità, ma guarda, io se ha paura non lo deve fare quel lavoro lì, perché non lo deve fare assolutamente. È un lavoro che non è per lui. Cazzo, si dimmi cazzo di droni, pensa tu, si gira di scatto, ma la scala c'è qualche problema. E allora, quello non è lavoro per lui. Io manco la valla di Maruggio, fatti un conto. Purtroppo c'è gente che è paurosa, non ne deve fare di quel lavoro, perché quel lavoro è pericoloso. No, non è per lui. Ma solo infatti devo essere attaccato, sei male grosso, 37 anni va, 37 anni. Pensa tu, tatuaggio, ubriaco di me. Cazzo, io guarda, questa gente qua, cazzo, è proprio. E sono gente così, da sbarco, che non è mai più nuda, in vita sua, e cosa vuoi fare? Purtroppo è così. Anche sul travaglio, vi do coraggio, niente, cazzo. Se vai in paura non ne va nemmeno, anche sul travaglio. Ma che cazzo, guarda, come posso, Natali? È un po' non è tanto illuminato, però vedi non vedi, dai. Cazzo vuole un paletto, vuole fare per illuminare il cazzo tutto, campo di San Siro. E a chi so fifoni, so, Manuel, non so come ti puoi passare io e tu, compreso, in chi vi ha già tutti gli storie, a rugio e cosa, ne bigliano a succiumare, mi sa niente. Guarda, io quando arrivo, faccio la, quando siamo venuti, arrivo lì, mi metto in un punto dove c'è proprio buio, mi accende la televisione, mi guardo il film, ogni tanto mi faccio un giro, qui e là, e dopo mi si do la pure in macchina. Cazzo, ma che cazzo di paura devi avere? Se sei così, no, non ne devi neanche fare domanda di lavoro così. Di questi lavori qua non ne devi neanche fare. Perché se hai paura, no, a parte che non fai il lavoro come devi fare, sinceramente, perché non vai neanche a controllare i container, che ci sono i container, ci sono altre cose di valore, e quello lì neanche ci va a controllare perché c'ha paura. Infatti, però lo svizzero è andato a controllare, a fare, e cosa aveva? Lo svizzero è chi su non manda nel no, ma cosa, se fifoni così non si avvicina neanche. Guarda, lui sta, quando entra in servizio, adesso stanotte tocca a lui, un giorno, a lui gli dà solo un giorno, in tutta la settimana si fa una notte solo. Invece chi si fa di più la notte? Siamo io e un altro collega che siamo i più anziani, che ci siamo da tanto noi. Lui è appena arrivato, c'è 2 mesi. Ci facciamo una settimana io e una settimana lui di notte. A lui ne dà solo uno, ma perché? Perché lo sai che c'ha paura. Fisso questo. Però non è giusto. I turni, se li devi fare, li devi fare come li fa me, li deve fare lui e li deve fare l'altro, giusti, perché il giorno, non per non fare la notte, perché non me ne frega un cazzo, è per la presa per il culo, perché come li faccio io li devi fare tu. Ehi, ma devi essere incozzato, compreso. Se no la viene fatto fare tu nel momento di fai tu. Ah, lo sei incostato, la scusa del bambino, Tolio, c'è un bambino piccolo, che magari sta male, qui, là, scuse, lascia perdere la tariffa. Io ho capito, e io lo vivo. Purtroppo, vi viene siamo sempre noi, chi sanno i barri d'avaglio, che vuoi che ti dica? Speriamo che domani chi c'è a cazzo non si ripuceggia, c'è la dottoressa, che manco di visite già, è una, guarda, Cucci, che male ho fatto a pigliarmi, non c'è, perché non ce n'è vicino qua di medici, se no me l'avrei cambiata volentieri subito, cazzo. Perché dovrebbe venire a visitarmi a casa, io non posso camminare, allora andata a Edda, mi deve accompagnare da amico mio. Se c'è dolore, è normale che non è cazzo a fare. E allora? È mezz'ora, amico, perché devo essere lì alle 10, perché alle 10:30 deve andare via lì. Dimmi tu. Io, cazzo, sì. Per cazzo tu c'hai la macchina, cazzo, e portai in casino. E allora, non è chissù, chi non vi posso andare a pigliarmi la macchina? Che sono potuto a 2 ore in più mi fa di mariraca quando arriva anch'ivi e cosa posso? Non posso manco guidare da voi. Guarda, ti vengono certi nervi. Guarda così, sì, non per fare niente, ma lo sai, io lo stesso, quando prima di operarmi, non potevo camminare dai dolori che c'avevo, facevo un passo e mi dovevo sedere perché mi bruciavano proprio le gambe, i nervi proprio delle gambe. Se io non so così, a me a un'anca non mi arrivi sangue addirittura, mi viene un dolore allucinante, ma noi, quando arrivo lì a prendermi la macchina, cazzo. Oi, gli ha so che buon fiume già. è un casino, quando è così è un casino, sì. E poi qua non è neanche patente, cioè sei tipo più pucaetta, infatti sarei avuto la patentiera da Roma anche d'andata, abbia abbigliato la macchina da rubarcheggio ed io il rubalato, mi rubusato e via, invece non puoi fare nulla così. Deve venire quel medico, quell'amico mio che è medico, quello psichiatra infantile, è quello lì, e mi accompagna lui dalla dottoressa, è molto gentile. Ma come sì. Io travaglia a Clinica Sant'Ubrido, travaglia, ma è un casino, anche lui lo sa. Dice che si soffende tutti i dottori, l'assicurazione, ma curarsi, anche se no non ti curano, se no vai di là, sei buttito. Se non ti intendi, come in America, sanità non esiste, o c'è l'assicurazione oppure non ti curano. Ma se no se ne in Africa. Magari abbiamo i dottori italiani in Africa. Cazzo, non vedi che tutti i riduttori italiani, sicuramente sono i più bravi, a chi fa l'università là, sono molto severi qui e imparano i vecchi, compreso l'AE. Tutti fuori, si andano tutti fuori, a chi no che non li vuole pagare. Lo so. E quello che se ne vanno, ci sono dottori, a chi non li pagano, e fanno bene, perché da una parte fanno bene. Cazzo, non sei, forse 24 su 24 si può dire e lo sapete due citi, no, così non funziona. E la stessa cosa bisogna fare come siamo noi, la stessa cosa. Tu vuoi che faccio il servizio 24 su 24? Paga bene, e vedi che ne trovano di personale. Io lo grido, sì, uno è pagato e anda volentieri pure a travagliare. Ah, io che non schifo una tale che mi cazzo mi vergogno di me stesso, cazzo che sta mandando per 40 euro a notte, dai cazzo, è un coso, non si può, dai. Guarda che tu non ti devi vergognare, perché il lavoro nobilita l'uomo, però cazzo chi si deve vergognare sono loro che non vogliono pagare quello che è giusto. Cosa? A travagliano per vagogna, no, a furare per vagogna, no, a furare, no, a travagliare. Ma noi sono loro che si devono vergognare che sono dei truffatori. No, ma non so perché la gente, ma non è qui quando ci vede parlando, ti chiedono, no, più o meno, quanto ti alca, tu sei pagato bene, ti fai tutte quelle ore, sei pagato bene, quando gli dici loro, ma scherzando stai, e io scherzando, e cazzo io me ne ero andato, tu fai un festo e te ne ero andato. Quando c'è roba da pagare non è che ti danno così un punto in bianco, no? Prima di andare devi trovarti un posto già da sostituire, non è che ti danno così, no? Ma se no i libri me lo caldo. E allora, e così i ragazzi di Cagliari che hanno travagliato in chili come te corriere, ma non così tanto, ma sì, guarda, un massaggio visto cazzo, chi guarda, l'ho pigliato e muccio. Ah, guarda, lascia perdere, mi viene solo a pensarci, mi viene nervoso, ma io quando entro in quel cantiere, ho già le palle all'aria, pensa come ti sono io. Forza, perché non te ne viene voglia di lavorare, uno se è pagato bene ci va volentieri a lavorare, invece si trattano così, è logico che uno non ci va volentieri a lavorare, raccoglia. A un certo punto. Aspetta un attimo, suona il telefono, Natali. Attenzione, su 10, c'è qualcuno? Sì, su Boia. Ciao. Ciao, Natali. E allora? E allora, siamo qui, e ora ti dica. C'era Manuele pure al telefono adesso. Stavamo parlando fino a poco fa. Adesso era un po' che non vi sentivo. Sì, a me no, perché non ne avevo neanche voglia di entrare, non ne ho voglia. se sono... non mi sento bene, mi... già, sto male, quindi no... non ne ho voglia manco di parlare, non solo d'altro. E cosa c'hai? Malessere generale? No, no, il dolore dove mi hanno operato, all'irnia e alla pancia. Sono da Pasquetta così. Infatti domani vado dalla dottoressa prima e mi visiteggia questa stronza. Cazzo, non so più a che santo votarmi. Ma non te l'aveva mai fatto questa cosa? E adesso che te la sta facendo? Sì, da Pasquetta sono così. Cazzo. Non posso andare manco a fare pipì in bagno perché mi fa male. Cazzo. C'ho la forza di Brufen. Ma non è che ti è ricresciuta l'ernia? No, che te ne sei fuori l'ernia. Cosa... è lì che mi fa male, il basso ventre e la pancia mi fa male. Se non riuscivo neanche a andare di corpo, non riuscivo, sono da Pasquetta così. Ho l'accusa che ho mangiato un pochito, vedete se non ne posso mangiare, perché non ho più la colicisti, che mi ero operato. Anche lì, cosa vuoi ti dica? E vuol dire che non ne posso più mangiare, però non mi è passato il sudorori. Adesso già sto andando di corpo, ma boh, non so cosa dire. C'ho sempre questo dolore. E tu vai dalla dottoressa e diglielo che c'è questo problema, perché non sono cose da trascurare. E lo so, e domani c'ho l'appuntamento. Finalmente sono riuscita a prendere l'appuntamento domani mattina. Cazzo, se vuoi ti dica. Io stamattina, amico, per fare 7.30 sono andato a prendere l'appuntamento, un'ora e mezza di fila ho dovuto fare per mettere due film. Io lo so, che cosa vuoi fare, è tutto questione di fila. Cazzo, c'ho un brufolo nell'occhio, vicino all'occhio io, no? Non so cosa cazzo sia. Beh, a ottobre mi visitano, perché il culista mi ha detto di farmelo togliere, questo bombuglione che mi è uscito vicino all'occhio. Ma a ottobre l'attacco non ci sono posti, non ne ho potuto fare, e la devo fare, fai forza. Cioè, 300 euro costa un attacco. E quell'affare che c'è nell'occhio sarà il canazio. Sono stato operato anche io.